Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Expo 2015 destinato al fallimento, dallo scontro Formigoni-Moratti sui terreni alla nomina di tre differenti amministratori inoperosi. In questi 30 mesi Milano ha speso un mare di soldi per fare la guerra delle poltrone. Così, da un'occasione di svolta, l'Expo 2015 si trasforma in una proiezione dettagliata del declino italiano. Cialtroni, tuona Giulio Tremonti da Sondrio quando parla dei governatori del sud. Incapaci di spendere i finanziamenti europei. Che pensi mi? È lo slogan preferito del presidente Berlusconi. La modernità milanese è fatta mito. Roma ladrona è l'anatema scagliato da Umberto Bossi da Gemonio contro i parassiti nemici del federalismo. Non passa giorno, ora, telegiornale, senza che il governo non metta in scena la sua vera, unica ideologia, l'efficientismo meneghino. E allora, come la mettiamo con la figura da cioccolatai che Milano sta rimediando nel mondo con l'Expo del 2015? La fotografia del gruppo del trionfo parigino del 31 marzo 2008, la vittoria su Smirne, campeggia nell'ufficio del sindaco Letizia Moratti. Tutti in festa, dalla Moratti a Formigoni, da Prodi a D'Alema, da Emma Bonino ai testimonial Al Gore, Jacques Attali, Andrea Bocelli, Clarence Seedorf e chi più ne ha più ne metta. Un mega party per festeggiare le magnifiche e progressive sorti della rinascita di Milano, della Fiera, di Malpensa, la grande occasione di una capitale europea che da 20 anni campava di chiacchiere e distintivo, mentre le altre, da Siviglia a Francoforte, da Londra a Berlino, si muovono, cambiano, crescono, fanno affari. 2 anni e mezzo dopo, l'unica cosa positiva rimane quella foto. 30 mesi e un mare di soldi buttati via in guerre di poltrone. 3 amministratori delegati cambiati. Prima l'inutile Paolo Glisenti, messo dalla Moratti. Il Rasputin della Bovisa, fu la memorabile definizione di Guido Rossi. Poi il rovinoso Lucio Stanca, voluto da Berlusconi, e ora il city manager Giuseppe Sala, senza che Milano 2015 abbia realizzato e neppure cominciato una sola opera. Non l'autostrada Pedemontana, non una delle 2 linee di metropolitana previste, non un albergo, un museo, una casetta del villaggio d'accoglienza, il centro stampa, la sede RAI. Non parliamo poi della moschea, che la Lega insorge, o delle leggendarie vie d'acqua o dei nuovi parchi nella città più inquinata d'Europa. Miraggi. Nemmeno un accenno di intervento pubblico si scorge a occhio nudo sull'area di 1.000.000 e passa di metri quadrati di Roppero, destinata a ospitare i fantomatici, almeno oggi, 30 milioni di visitatori. Tranne i cartelli, ormai comici, con la scritta «Qui sorgerà Milano 2015», che campeggiano sulla distesa di terreni agricoli intonsi. Ma quando? Dove? Con i soldi di chi? Le aree sono ancora in mano dell'ente fiera e del gruppo Cabassi, in attesa che il comune, la regione, la provincia, Asso Lombarda, la Camera di Commercio, il Ministero del Tesoro e il governo, insomma Moratti, Formigoni, Berlusconi, la Lega e la community business milanese, riescano a trovare un dannato accordo, un giorno solo in cui diranno la stessa cosa. Avanzeranno una proposta condivisa. Ne sono passati più di 800 e quel giorno non è ancora arrivato. 2008. La vittoria su Smirne. Campeggia nell'ufficio del sindaco Letizia Moratti. Tutti in festa. Dalla Moratti a Formigoni, da Prodi a D'Alema, da Emma Bonino ai testimonial Al Gore, Jacques Attali, Andrea Bocelli, Clarence Seedorf e chi più ne ha più ne metta. Un mega party per festeggiare le magnifiche e progressive sorti della rinascita di Milano, della Fiera, di Malpensa, la grande occasione di una capitale europea che da 20 anni campava di chiacchiere e distintivo, mentre le altre, da Siviglia a Francoforte, da Londra a Berlino, si muovono, cambiano, crescono, fanno affari. 2 anni e mezzo dopo, l'unica cosa positiva rimane quella foto. 30 mesi e un mare di soldi buttati via in guerre di poltrone. 3 amministratori delegati cambiati. Prima l'inutile Paolo Glisenti, messo dalla Moratti. Il Rasputin della Bovisa, fu la memorabile definizione di Guido Rossi. Poi il rovinoso Lucio Stanca, voluto da Berlusconi, e ora il city manager Giuseppe Sala, senza che Milano 2015 abbia realizzato e neppure cominciato una sola opera, non l'autostrada pedemontana, non una delle due linee di metropolitana previste, non un albergo, un museo, una casetta del villaggio d'accoglienza, il centro stampa, la sede Rai. Non parliamo poi della moschea, che la Lega insorge, o delle leggendarie vie d'acqua o dei nuovi parchi nella città più inquinata d'Europa. Miraggi. Nemmeno un accenno di intervento pubblico si scorge a occhio nudo sull'area di 1.000.000 e passa di metri quadrati di roppero destinata a ospitare i fantomatici, almeno oggi, 30 milioni di visitatori. Tranne i cartelli, ormai comici, con la scritta «Qui sorgerà Milano 2015», che campeggiano sulla distesa di terreni agricoli intonsi. Ma quando? Dove? Con i soldi di chi? Le aree sono ancora in mano dell'ente fiera e del gruppo Cabassi, in attesa che il comune, la regione, la provincia, Asso Lombarda, la Camera di Commercio, il Ministero del Tesoro e il Governo, insomma Moratti, Formigoni, Berlusconi, la Lega e la Community Business milanese, riescono a trovare un dannato accordo, un giorno solo in cui diranno la stessa cosa. Avanzeranno una proposta condivisa. Ne sono passati più di 800 e quel giorno non è ancora arrivato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Curzio Maltese, Liti, Veti e Tagli, così fallisce l'Expo 2015, da La Repubblica del 5 luglio. Sono in arrivo le memorie del leggendario chitarrista dei Rolling Stones, Keith Richards. Il libro in uscita, il cui titolo sarà Life, sarebbe pieno di rivelazioni sconvenienti sulla storia degli Stones e dello stesso leader Mick Jagger. Un aspetto, quest'ultimo, che a Jagger non andrebbe proprio a genio. Potrebbe essere la fatidica goccia che fa traboccare il vaso. Le memorie di Keith Richards, storico chitarrista dei Rolling Stones, verranno pubblicate a ottobre. La casa editrice Little Brown, che le ha pagate 4,8 milioni di sterline, ha dovuto aspettare 3 anni prima di ottenere il manoscritto finale. Adesso il volume c'è, ma non manca chi teme che possa frantumare definitivamente i rapporti tra Richards e Mick Jagger. Life sarebbe infatti pieno di rivelazioni sconvenienti sulla vita non solo del bassista, ma anche dei compagni. Un aspetto questo che a Jagger non va a genio. Lui stesso avrebbe intenzione prima o poi di raccontarsi. Richards, in un certo senso, gli ha rubato la trama. C'è in più il fatto che dal racconto di Richards emerge un Jagger senza veli. Il libro racconterebbe amori extraconiugali ed esperimenti con sostanze allucinogene sinora inediti. Jagger non si è mai espresso in termini positivi sull'iniziativa del collega. «Credevo che per raccontare la propria vita bisognasse almeno ricordarla», aveva sottolineato un paio d'anni fa. Richards, che inizialmente aveva detto di ricordare poco o nulla degli anni d'oro dei Rolling Stones per via dei suoi tanti eccessi, sembra invece aver ritrovato la memoria. Il management del gruppo, stando al Daily Mail, sta ora cercando di convincerlo a ritoccare alcune parti del libro per evitare la rottura con Jagger, il quale sembrerebbe poco intenzionato a riallacciare i rapporti. I due litigano spesso e su tutto, dalla scelta di Jagger di accettare il titolo di Sir, allo stile di vita, superattivo quello di Jagger, sregolato e pieno di eccessi quello di Richards. Il futuro del gruppo adesso sarebbe in dubbio. Non sono fissati per il momento tournée o concerti. Richards non si è presentato al Festival di Cannes perché è contrario al modo in cui Jagger ha scelto di promuovere il film documentario sul gruppo, Stones in Exile. Sarebbe la fine non solo di una lunga carriera, ma anche di un'amicizia di vecchia data. Keith e Mick si conobbero quando erano ancora ragazzini. Erano compagni di scuola nel Kent. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Libro di Richards e per gli Stones si riparla di crisi. Di Paola De Carolis, dal Corriere della Sera, del 6 luglio. Devil, defeated woman, man.